congiunti, affetti stabili e amenità varie, ci prepariamo alla fase 2 con numeri confortanti. È vero che le vittime sono ancora oltre 300, ma il numero di attualmente positivi torna a scendere e aumenta di 1700 unità quello dei dimessi e guariti. Fase 2, ma come? Chi ne è escluso, chi vede una riapertura ritardata, non è solo preoccupato, ma vede la fine della propria azienda. Parliamo di estetisti, parrucchieri, bar, ristoranti che hanno bisogno di sostegno. Subito. Il tutto mentre si preparerebbe una marcia indietro sulle messe. Dal 10 maggio forse i fedeli potranno tornare in chiesa la domenica, tra mille precauzioni. Dagli Stati Uniti, Donald Trump torna intanto a intervenire dicendo che nel paese molte scuole forse riapriranno, stima un bilancio delle vittime complessivo tra le 60 e le 70.000 unità, ma i morti già ieri avevano raggiunto i 55.000, mentre il Washington Post pubblica documenti dell'intelligence. A gennaio e febbraio i servizi avevano allertato la Casa Bianca 12 volte sui rischi, ma erano stati ignorati. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Come ogni mattina in questi giorni apriamo con i Rolling Stones. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Il loro brano dedicato appunto a Covid-19. Sono un fantasma che vive in una città fantasma. È martedì 28 aprile, sono le 6:31 minuti e 25 secondi. In regia c'è Peter Bescapè, Alessandro Marco Tulli e Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E buongiorno da Simone Spezia. E ci siete voi soprattutto, 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp, soprattutto audio, come sapete in questi giorni in particolare le vostre voci ci fanno e mi fanno particolarmente piacere. Fase 2, ma chi posso andare a trovare, chi posso incontrare? Dal 4 maggio. Iniziamo la più leggera, va, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Scusate, ma voi siete parenti? No, però... allora non posso dare informazioni. Scusate. Loro no, ma io parente sogno. Cugino. Suo pace è fratello di Maceme. Chi? Maceme, mia mace. Siamo cugini di sangue. Misto. Siamo cugini di sangue misto, insomma c'è tutta questa questione dei congiunti, no? Lo ha detto il Presidente del Consiglio l'altro giorno in conferenza stampa, domenica sera in conferenza stampa, si potrà far visita solamente ai congiunti. Poi il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri specifica che si parla anche di, com'è, affetti stabili. Oh, guardate che, insomma, stamattina io vi dico francamente che ho un filo di irritazione stamattina, che deriva dal fatto che ho un po' l'impressione che si continuino a trattare gli italiani come degli irresponsabili. Ora, se noi prendiamo ancora una volta i dati del Ministero dell'Interno, questi dati del Ministero dell'Interno che ci dicono che, fatti un tot di controlli, centinaia e migliaia di controlli, il tasso di violazione delle norme è molto basso. Questo vuol dire che ci stiamo rivelando molto responsabili nei nostri comportamenti. E allora questa mania di specificare ogni singola cosa, di normare ogni singolo dettaglio, lasciando tutti tra l'altro nella confusione, non lo so, non la comprendo. Così come non comprendo, a leggere la prima pagina del Fatto Quotidiano, e guardate che rientra nello stesso ambito, nello stesso discorso, questo titolo che ci parla di uno scenario dell'Istituto Superiore di Sanità che è dietro la prudenza per questa fase 2 e ci dice se si riapre tutto, collasso del sistema sanitario entro un mese. Ma allora, quello che dico io, ma perché ci pensate che siamo dei bambini e non ci potete riferire di grazia i motivi per i quali si prendono le decisioni e non solamente le decisioni? E su, un po' di chiarezza. Va bene, Aldo, Giovanni e Giacomo a parte, l'ho presa male, come avete sentito. La questione dei congiunti, degli affetti stabili, cosa mai vorrà dire? Cosa mai vorrà dire il Presidente del Consiglio? Congiunti è una formula un po', diciamo, ampia, generica, per dire che non sarà, adesso poi lo preciseremo anche con le FAQ, però voglio anticipare che non significa che si potrà andare in casa altrui in modo a trovare amici, parenti, a fare a trovare amici, a fare delle feste, eccetera. Si andranno a trovare le persone con cui c'è un rapporto di parentela, con cui ci sono stabili relazioni affettive e via discorrendo. Ecco, però non significa incontriamoci liberamente nelle case tra amici, diamoci pacche sulle spalle, perché vorrei ricordarlo ancora una volta. La causa di un quarto dei contagiati è nelle relazioni, negli appartamenti, in casa, nelle abitazioni private. Così Conte, dunque, Voi avete capito? Ditemelo, va. Sarebbe forse stato meglio, lo dico francamente, ma insomma, non è una questione di critica al governo o meno. Sarebbe stato meglio dire: sapete voi cosa fare, ok? Sapete voi come tenere le distanze, usare le mascherine, come fidarvi, come non fidarvi. Ma che vuol dire affetti stabili? Che vuol dire? La realtà è che lo sappiamo, però è tutto, ripeto, è sempre tutto da normare. Matteo Renzi. Quindi devi dire, occhio, che il virus si trasmette così, quindi ti do l'ordine di stare con la mascherina fuori e di stare attento in casa, ma non puoi mettere in discussione se incontri Tizio o Caio, certo. Perché questo non ti compete, certo. non tocca allo Stato. Mi pare tutto sommato un buon punto quello di Renzi, un buon punto, non compete allo Stato. Cos'altro? Dal fronte del bollettino, ecco, proprio il capo dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro. Se le misure funzionano, recuperiamo la libertà. Detto ciò, mi piacerebbe che l'Istituto Superiore di Sanità ci aiutasse anche a capire quali sono gli scenari. È chiaro che le indicazioni devono arrivare dal Ministero della Salute, dal governo, però se poi mi ritrovo sui giornali gli scenari sulla base dei quali si sono prese queste decisioni, invece no, io voglio sapere come cittadino prima ancora che come giornalista. Brusaferro. Proviamo delle misure, misuriamo l'effetto che ottengono, se come auspichiamo ottengono degli effetti sostenibili rispetto al nostro servizio sanitario, rispetto alla circolazione del virus, procediamo con ulteriori misure. L'obiettivo è arrivare in un tempo, in una prospettiva ragionevole, se non infinita, verso ulteriori misure che ci consentano di recuperare tutti i gradi di libertà che riusciamo a recuperare. Caro Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Francesco, scusa, stamattina mi sono svegliato un po' storto, evidentemente. Come stai? Ma siamo in due, diciamo, la tua irritazione è la mia, adesso cercheremo di nasconderla. No, per favore. Ho bisogno di morbidezza. Senti, come la vedi questa fase 2? Non bene, nel senso che ci sono diversi problemi. Noi partiamo però da una nota di contesto. Ieri il mercato, c'è stato questo dato sul mercato dell'auto che mi ha sconvolto, c'è un crollo delle immatricolazioni del 98%. Ci sono persone che hanno chiuso i loro esercizi commerciali da un mese e che hanno la prospettiva di tenerli chiusi un altro mese. Ci sono persone che fanno gli stagionali, che hanno, diciamo, nei prossimi 2-3 mesi il senso del reddito hanno il reddito del loro anno che non sanno se e come potranno riaprire. A queste persone bisogna dare delle risposte, perché altrimenti ne ammazza più la crisi del virus, cioè questo è il problema vero. Secondo me stiamo sottovalutando il problema sociale oltre che economico di questa crisi, e la cosa pazzesca da questo punto di vista è che uno di fronte a un problema così serio si aspetterebbe trasparenza, risposte circostanziate e motivate da fatti e una roadmap chiara, e non c'è nulla di tutto questo. Questa è la cosa che spaventa, l'idea che in qualche modo si sia arrivati alla vigilia di questa fase 2 con approssimazione e con un'estrema, come dire, non voglio dire, ma senza responsabilità, senza avere la consapevolezza di quello che stanno passando gli italiani. Tra l'altro ieri c'è stata una sorta di sollevazione da parte di tutti quei settori che riapriranno il 1° giugno, estetisti, parrucchieri, ovviamente i bar, i ristoranti, insomma, che hanno tutte le preoccupazioni del caso, anche perché, come ci ricordava un ascoltatore, se non sbaglio proprio ieri, ci ha mandato un WhatsApp audio, in Germania, tanto per fare un esempio, la cosa che hanno fatto è stata non passare dalle banche, ma riversare immediatamente dei quattrini nelle casse delle aziende, che soprattutto quelle più piccole, che rischiavano di chiudere fino, mi pare, ai 15.000 euro. Ecco, da segnalare, chiedo a Peter Bescapè di preparare l'audio del ministro Patuanelli, che insomma ieri pare che qualche segnale sotto questo aspetto sia arrivato, e Patuanelli parla di 10 miliardi a fondo perduto in arrivo. Sentiamo, va, ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Non è pronto, vediamo un attimo se riusciamo ad ascoltarlo. No, e vabbè, insomma, pazienza. Comunque ha parlato di 10 miliardi a fondo perduto, vedremo insomma se questi soldi arriveranno con il famoso decreto di aprile. Questo è sicuramente un fronte, Francesco, no? Questo è sicuramente un fronte. Aggiungo un dettaglio: se il barista, io abito a Lodi, in Lombardia, dove abbiamo ancora diciamo dai 600 ai 1000 contagi al giorno, può in qualche modo trovare nei dati diffusi dalla protezione civile il motivo per cui sta chiuso. Ieri 22 province e 2 regioni, Molise e la Basilicata, piccolina, sono due, 22 sì. province erano a contagi zero. E tu devi dirlo a un barista perché deve stare chiuso fino a giugno, nonostante la sua provincia sia contagi zero? Perché in Lombardia ci sono ancora 600.000 contagi? Anche qui, che senso ha, diciamo, una politica uguale per tutti a livello nazionale quando il contagio non è indipendente, diciamo, dai confini amministrativi, ma non è uguale in tutta Italia? Oggi come oggi lo possiamo dire abbastanza chiaramente: il coronavirus, l'epidemia del coronavirus, è un fatto prevalentemente lombardo e piemontese, con alcuni focolai ancora forti in Liguria, in Emilia Romagna e Veneto, e in provincia di Trento, ad esempio, nel caso di ieri ha avuto 100 contagi, ma il resto dell'Italia è fondamentalmente libero. Io penso che, diciamo, un'accelerazione da questo punto di vista ci sarebbe dovuta esserci, anche perché avrebbe dovuto esserci, anche perché parliamo proprio in quel caso delle regioni che vivono ad esempio di turismo. Sì, sì, sicuramente. Tra l'altro, su questo fronte, regione per regione, si va regione per regione, e anche le regioni che insomma sembravano maggiormente in difficoltà, come il Veneto, si preparano a ripartire con un po' di anticipo. Sentiamo Zaia, va. Penso che ci voglia razionalità e capire anche che il sacrificio sì, lo si può fare, ma non protrarre in questa maniera. Domani mattina ci sarà una reinfezione, non è che possiamo ragionare col fatto è colpa sua o colpa tua. Ragioniamo col fatto che come comunità decidiamo di darci delle regole, di usare i dispositivi. Continuo a dirvi che i medici in ospedale, 10.000 medici, si sono infettati per l'1,3% utilizzando le mascherine, in ospedale dove il distanziamento sociale non c'è. Ci diamo delle regole sul posto del lavoro, abbiamo avuto documenti elaborati col mondo dei sindacati, dei rappresentanti dei lavoratori, col mondo dei datori di lavoro, ma bisogna comunque aprire. Il presidente della Lombardia, Fontana, sulla riapertura delle attività commerciali. Avrei iniziato sicuramente a riaprire magari in modo parziale, in modo contingentato, in modo limitato alcune attività commerciali, per esempio. appunto le attività commerciali. Sangalli di Confcommercio, ce l'abbiamo, Peter? Vai. Ogni giorno di chiusura in più produce danni gravissimi e mette a rischio imprese e lavoro. La situazione è insostenibile. Chiediamo al presidente Conte un incontro urgente, anzi urgentissimo, per discutere due punti: riaprire prima e in sicurezza e mettere subito in campo indennizi e contributi a fondo perduto per le imprese. Facciamo così, andiamo a sentire che succede sulle strade, ammesso che succeda qualcosa, e poi le messe. Mattino. Sapete della protesta della Conferenza Episcopale Italiana? Sapete della protesta del mondo della Chiesa dopo che domenica il Presidente del Consiglio ha detto che no, a messa non ci si torna? Sentiamo per esempio Monsignor Paglia, sentiamolo. Per noi cristiani è impossibile vivere senza la domenica. A me pare che sia terminato il tempo di una sorta di digiuno e è indispensabile per noi ritrovarci assieme con tutte le indicazioni, tutte le criticità si possono eliminare e controllare. Si può fare anche il numero chiuso, si possono allargare le sedie o i banchi nelle chiese, si può evitare di fare la processione nella comunione, lo facciamo nelle farmacie, lo facciamo nei supermercati, lo faremo dovunque, ed è impossibile farlo nelle chiese. Qua c'è un'intervista, niente male, a pagina 7 del Messaggero, al professor Massimo Galli, il primario del Sacco di Milano. Vi leggo solo il titolo: in chiesa gli stessi rischi dello stadio, non si può consentire ora la libertà di culto. Dunque, dibattito aperto anche sul fatto che forse dal 10 maggio si parte, perché il Presidente del Consiglio ha fatto sapere che si sta studiando un protocollo. E quindi molti dicono, vabbè, ma come? A messa ci torni e a scuola no? A messa ci torni e altre attività no? Pur comprendendo le necessità spirituali del mondo cattolico. E anche questo entra nel calderone del dibattito pubblico, come è giusto che sia. Anche voi, ditemi come la pensate. 349-238-6666 per i vostri messaggi su WhatsApp audio. Torna da noi Alfonso Castellone, che è comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, provincia di Varese, ma anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, convocato per una seconda volta. Ogni volta che esce un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non ci capiamo nulla o ci capiamo poco, chiamiamo Castellone. Buongiorno, benvenuto. Grazie della fiducia. Bentornato. Allora, eccoci qua. Dunque, lei ha capito su quale base di affettività multerete le persone, Castellone? C'è una battuta che sta girando già da ieri sulla rete: chiederemo a una persona che vuole andare a trovare la fidanzata se è vero amore o se è solo fare sesso, insomma, quindi un po' di l'abbiamo vista un po' tutti, quella è girata tantissimo, un meme che era un po' più volgare, era il romano e diceva, ma gli vuoi bene davvero o vuoi solo fatte, insomma, così allora, è. Il discorso è chiaramente, tornando anche a quella volta scorsa, sul DCPM è stato usato un termine che nell'ordinamento giuridico è stato usato poche volte, ma per me congiunti. Il codice civile fa riferimento ai parenti ed è abbastanza semplice. Sul congiunto non ci sono grossi precedenti, quindi c'è un articolo del codice penale che fa riferimento proprio specifico a chi sono i prossimi congiunti. E una sentenza, ecco, questa è interessante, una sentenza di Corte di Cassazione penale in relazione a una richiesta di risarcimento del danno di una fidanzata in caso che era morto il fidanzato in un incidente stradale. Ecco, lì gli hanno consentito di avere questo risarcimento anche di danno non patrimoniale, per l'importante era dimostrare l'esistenza e la natura del rapporto nella sua stabilità, quindi non inteso non come occasionale, ma è una cosa continuata nel tempo, ecco, quindi diciamo che sembra ovviamente semplice. Castellone, nella pratica è una cosa indimostrabile, no? Per voi che siete sulle strade e che dovete fare i controlli, voi come i poliziotti, i carabinieri, è indimostrabile. Cioè non è che porti uno a processo e dici certo, se poi lo multi alla fine non lo multa e ti dice vado alla mia fidanzata, basta, pazienza. Adesso esatto, fra l'altro sembra che oggi usciranno fuori ancora dalle FAQ del governo proprio su questa specificità. Ripeto, la difficoltà di dimostrare le relazioni, e va bene, ce lo teniamo. Per esempio, l'amante è un affetto stabile oppure no? Vabbè, adesso la dico brutale, però insomma, è anche un elemento. Conosciamo un po' tutte persone che hanno dei rapporti, questi tipi di rapporti da anni, quindi più stabile di addirittura di matrimonio. Senta, sul resto, ci sono tante domande. Per esempio, le seconde case non si possono raggiungere a meno che non siano nella stessa regione. Come funziona? Così sembra, perché è stata cancellata proprio il divieto di andare nelle seconde case in quest'ultimo decreto rispetto a quello del 11 aprile. E quindi, se una cosa è stata cancellata, vuol dire che non è più come quella di prima. È rimasto il divieto di andare fuori regione se non per motivi di assoluta urgenza. Tra i quali non c'è l'incontro con l'affetto stabile, per così dire. No, vabbè, dico, perché anche questi chiarimenti sono necessari. Cioè, io non posso andare, che ne so, sono a Milano, non posso andare in Piemonte, metti Novara, tanto per fare un esempio, di un posto che è che raggiungo in 40 minuti, certo. se ho la mia fidanzata là, ipoteticamente. Perché da una parte si dice stato di necessità, motivi di situazione di necessità, e subito dopo fuori regione parla di assoluta urgenza, capisce che i termini sono diversi, e se sono diversi vuol dire che bisogna ragionare in maniera diversa. Quindi immagino sì che come si diceva una volta, donne buone e paesi tuoi, quindi si rimanga in regione per le figli di mazzate. Mi dice una cosa, come ci si regola nelle zone, lei insomma più o meno un po' di confine? Bravissimo. Io sono nell'area Malpensa, in effetti anch'io sono a passo dal Piemonte, non lo so, vedremo come comportarci. Perché sono zone, purtroppo... chiaramente Castellone, sono zone strettamente interconnesse, no? Se hai, ci sono paesi che sono, cioè, hai un pezzo, non lo stesso comune ovviamente, però hai di fatto un pezzo di un paese da una parte e un pezzo di un paese dall'altra, e sono sostanzialmente la stessa realtà. Sì, a parte il discorso lavorativo che chiaramente rimane, è stato precisato, rientra nella possibilità di andare fuori regione, anche qua c'è la particolarità di quanto tempo si sta per lavoro fuori regione, perché rimangono sempre il discorso delle quarantene, bisogna stare un po' anche lì attenti, c'era proprio l'articolo 4 del decreto che fa riferimento anche a questo tipo di situazione, e diciamo che rientra, non è complicato, cioè è un po' complicato, sa, perché poi anche noi italiani siamo molto bravi a chiedere buon senso per sé quando si è fermati dagli operatori di polizia, è un po' meno buon senso, ma anche magari un po' più di rigidità nei confronti degli altri. Tra l'altro, guardi, la risposta che mi stava dando, che non è una risposta ma per ovvi motivi, la risposta anche alla domanda che ci fa un ascoltatore, chieda perché da Piacenza non posso andare a San Rocco, che è sul confine, ma posso andare a Rimini, no? da Milano oppure da Lodi, dove si trova Francesco Cancellato, che è ancora in linea con noi, può andare a Sondrio, no? E non puoi scendere a sud, Francesco, praticamente. No, però... Aspetti. Sono piccole follie burocratiche queste. Anche il confine regionale, no? Sì, il confine regionale. L'assurdità, diciamo, proprio del pensiero che sottosta a questa fase 2. Prima sentivo sulle seconde case, ieri il ministro De Micheli ha detto invece che non si può andare nelle seconde case, cioè le interpretazioni sono vaghe. Ecco, c'è un punto che secondo me è importante: tutto questo non è motivato. Ieri Borrelli o Brusaferro, mi pare Borrelli, ha proprio rivendicato la necessità di tenere segrete le verbalizzazioni e tutto ciò che emerge, diciamo, dalle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico. Ecco, io la penso in maniera totalmente opposta e sposo quella che è la tua considerazione di prima. Diteci perché. Perché il senso di non andare da Piacenza a San Rocco e di andare a Piacenza a Rimini è motivabile se si dice perché si può andare da Piacenza a Rimini e perché non si può andare da Piacenza a San Rocco. Se non ci dite perché, tutto sembra assurdo. Certo. Non siamo bambini di 3 anni a cui si dice perché è così. Il tema è un po' quello, no? Come mi scrive un ascoltatore giustamente, dice: caro Simone, non essere polemico per nulla, si sta discutendo del sesso degli angeli, basterà usare il buonsenso. Però se tu come limite al buonsenso mi ci metti una multa, perché poi le multe arrivano, Castellone, no? Come no, anche se sono sanzioni amministrative, sono rimaste sempre delle stesse cifre, per cui se... 400 euro se uno va a piedi, l'aumento di un terzo se uno utilizza un veicolo, con la possibilità dello sconto del 30%. E l'autocertificazione bisogna tenerla sempre, no? Sì, quella sempre, anche perché in realtà non è stata introdotta da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma la circolare del Ministero dell'Interno all'8 di marzo, sostanzialmente una possibilità che viene data al cittadino di dimostrare la motivazione per la quale si sta spostando e successivamente all'operatore di polizia eventualmente a fare i controlli. Quindi è una sta proprio c'è la circolare del Ministero di questa comodità, diciamo pure, sì. Tenendo conto appunto che proprio a maggior ragione quest'ultimo decreto, anche questa è una delle battute che c'è in giro, ci sarà una nuova immagino un nuovo modello di autocertificazione, perché sono state introdotte un paio di situazioni in più da poter da segnarsi sul singolo. Senta Castellone, sinceramente, le sembra applicabile questa norma sugli affetti stabili? Cioè che voi possiate intervenire, voi, come intendo anche carabinieri, polizia, guardia di finanza, insomma, a multare chi fa visita ai non affetti stabili? Cioè, è praticabile secondo lei oppure no? Sinceramente no, cioè, come si fa? Cioè, nel senso, come si fa a dimostrare una roba del genere? Anche se le dico che già ieri la prima telefonata in comando di polizia locale che c'è stata subito dopo le prime informazioni è posto andato alla fidanzata, ma subito, la prima telefonata, e l'altra telefonata è posso andare a trovare i nonni, in quanti possiamo andare a trovare, visto che è stata introdotta una nuova un nuovo obbligo che è il divieto dell'assembramento anche in luoghi privati. Anche su questo è un passaggio particolarmente delicato, quindi io che noi che siamo in 3 in famiglia col bimbo piccolo non posso andare a trovare i nonni, perché se andiamo a casa loro siamo già in 5 e quindi in teoria, certo, è un assembramento più di 2 e siamo un assembramento, e allora non possiamo neanche tappare una bottiglia, perché altrimenti sarebbe un party. Quindi beh, certo, giustamente. Va bene. Dovremmo gustare casa per casa a dire: ma cosa state facendo? Ho sentito il rumore di un tappo. Esatto, cosa bravo. Succede? Grazie Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Non abbiamo tempo per i Rolling Stones per risentirceli alla fine, Peter Bescapè. Giusto un accenno, GR24 e poi tra un attimo con la rassegna stampa.